GR24, il 24 ore. Tornano i timori sui mercati, cali pesanti per euro e borse, ancora record per l'oro. Appalti legali di Anemone smentiscono, non sta collaborando. Protestò donando sangue per avere lo stipendio dalla ASL, ora è morta un'infermiera di Napoli. Calcio Popolo interista già in fila da ieri per un biglietto per la finale di Champions, ma la vendita parte domani mattina. Una buona giornata da Simone Spezzi e dalla redazione. Anche in apertura di questa edizione la situazione sui mercati con i cali che anche oggi sono pesanti. Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno a te gli ascoltatori. Come abbiamo anche detto a Salvadanaio, puntata dedicata oggi ai mercati, le borse continuano a calare, 4% il ribasso di Madrid, la peggiore di oggi, ma va male un po' in tutte le piazze del vecchio continente. A Milano il FTSE MIB cede il 3,14%, il FTSE Italian Share il 3,05%, Parigi meno 2,45%, Francoforte riesce un po' ad arginare le perdite ma cede comunque 1,2 punti, e poi Londra meno 1,77%. Si riaffacciano quindi le tensioni di fondo mai venute meno sul deterioramento dei conti pubblici della Grecia e degli altri paesi dell'euro, complice anche delle dichiarazioni intempestive tra l'altro del numero uno di Deutsche Bank, Ackermann, che ieri sera ha sollevato nuovi dubbi sulla solvibilità di Atene. Euro debole rispetto al dollaro a 1,24 e 70 in questo istante, ha toccato anche 1,24 e 74 e 47 dollari, minimo dal novembre del 2008, e oro ai massimi perché rispetto ad esempio a Londra ha toccato un nuovo record, l'oncia sale a 1,24 ed è tutto. Grazie dunque Valentina Furlanetto per questi aggiornamenti. Resta alta nel frattempo la tensione sociale in Grecia dopo l'ordigno esploso ieri davanti al carcere di Atene, che non ha provocato vittime. Una bomba esplosa davanti al tribunale di Salonicco, anche in questo caso non ci sarebbero morti. Altro dato economico diffuso questa mattina dall'Istat riguarda l'inflazione, salita all'1,5% dall'1,4 di marzo, e parliamo del mese di aprile, è una conferma della stima precedente. Su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,4%, il tasso tendenziale è il più alto dal febbraio 2009, ma l'aumento è dovuto soprattutto alla componente energetica, spiegano dall'Istituto di Statistica. E passiamo all'inchiesta su G8 e grandi eventi. I legali di Diego Anemone negano che stia collaborando. I suoi legali negano, ma secondo quanto rivelato oggi da diversi quotidiani, prima di essere scarcerato domenica scorsa, Diego Anemone avrebbe iniziato a collaborare con i magistrati di Perugia. Il costruttore, figura centrale nella cosiddetta cricca dei grandi eventi, in particolare avrebbe smentito il generale della Guardia di Finanza Francesco Pitorru. L'alto funzionario dei servizi segreti aveva dichiarato di aver restituito quanto ricevuto da Anemone per acquistare due appartamenti a Roma, case pagate in parte con gli assegni di Angelo Zampolini, l'architetto le cui rivelazioni hanno portato alle dimissioni del ministro Scajola. Gli avvocati di Anemone però stamattina hanno fatto sapere che il loro assistito non ha reso interrogatorio o fatto dichiarazioni spontanee e soprattutto non ha fatto alcuna ammissione. Gli inquirenti nel frattempo, oltre a quella che è già nelle loro mani, sarebbero alla ricerca anche di una seconda lista con i nomi di altri personaggi di primo piano che avrebbero ricevuto regalie da Anemone. Questo mentre a Perugia dovrebbe arrivare in giornata l'attesa decisione del Tribunale del Riesame sulla competenza dell'inchiesta, che potrebbe essere trasferita nella capitale. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E naturalmente per un'inchiesta che coinvolge la politica le reazioni politiche sono molte. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Mondo politico che si interroga sugli ultimi sviluppi di un'inchiesta che sta allargandosi a 360 gradi. Dall'opposizione si chiede al governo che venga fatta chiarezza. La maggioranza fa quadrato invece dicendo no alla diffusione incontrollata di notizie. Non credo siamo di fronte a una nuova Tangentopoli, dice il ministro della giustizia Alfano. Siamo di fronte a episodi, aggiunge, che se fossero veri meriterebbero una severa punizione dei colpevoli. Alfano chiede quindi alla magistratura serenità ma anche riservatezza. Persone molto vicine al Presidente del Consiglio riferiscono ancora questa mattina intanto di un Berlusconi deluso stupito ed amareggiato per quanto sta avvenendo, contrariato per la fuga di notizie, ma deciso ad isolare tutti coloro che non hanno agito correttamente. Dal Partito Democratico tuttavia Bersani rilancia: si deve andare a fondo o la corruzione dilagherà. Di Pietro parla di nuova Tangentopoli, Cicchitto PDL replica ed avverte: attenti alle liste di proscrizione. Dalla Lega un Bossi perplesso commenta: l'inchiesta sembra un po' strana, un po' preparata. E da Roma è tutto. Grazie dunque Vincenzo Miglietta. C'è una storia legata a quella dell'inchiesta, quella dell'attore Balducci, che a volte appare anche quando non dovrebbe apparire. Il suo ultimo film è uscito solo una settimana fa, Due vite per caso, e lui, oltre ad essere molto carino, è anche parecchio bravo. Ma Lorenzo Balducci ora è tutti i giorni sui quotidiani per tutt'altra ragione. È iscritto nel registro degli indagati insieme al padre Angelo per inchieste di cui è superfluo ricordare ancora la portata, ma essendo un volto noto, la sua immagine viene scelta a corredo di qualsiasi articolo parli della suddetta inchiesta, anche se di lui non si fa cenno. Certo, i nuovi nomi trovati nella lista di coloro che hanno avuto contatti con Diego Anemone in un qualche modo tornano di nuovo a lui, ma essere in quella lista non riconduce necessariamente a reati o favori. A smentire subito il regista Pupi Avati: pagò regolarmente un saliscendi per trasportare le vivande dalla cucina al piano rialzato nella sua casa di Todi, arnese che venne procurato da Balducci padre, e non ci sono nessi, spiega, con il fatto che il giovane Lorenzo abbia lavorato in suoi film, due film, sottolinea, e solo tre giorni di ripresa. Nella lista delle commesse anche Giancarlo Leone, potente funzionario Rai. Anche qui qualcuno insinua veniva contattato per far lavorare l'attore nelle fiction, una delle quali si chiamava Ironia della sorte, proprio giorni da Leone. Ma questo è solo un calambur. Sempre nella lista è cascato il nome del produttore cinematografico Andrea Occhipinti, geniale proprietario della Lucky Red, che distribuisce Due vite per caso. Lorenzo alla conferenza stampa di presentazione del film non c'era, ma la sua foto era lo stesso su tutti i giornali. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di inchieste che riguardano la politica, notizia di poco fa che un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari è stata emessa nei confronti del senatore del PDL Vincenzo Nespoli, sindaco di Afragola, provincia di Napoli. La richiesta di autorizzazione del provvedimento è stata inoltrata oggi a Palazzo Madama. L'ordinanza è stata emessa dal GIP Alessandro Buccino Grimaldi su richiesta di PM Henry John Woodcock e Vincenzo Piscitelli, l'accusa contestata di concorso in bancarotta fraudolenta e riciclaggio. Traffico nel caos oggi sull'autostrada 4 Venezia-Trieste per tre tamponamenti avvenuti sulle carreggiate ovest ed est all'altezza di Noventa di Piave. La situazione sta lentamente migliorando, come spiega Paolo Grigoli, comandante della postrada di San Donà di Piave, al microfono di Roberto Bonaldi. Si è verificato un incidente a catena dovuto a una scarsa visibilità per foschia. Sono rimasti coinvolti in due incidenti, uno più piccolo e uno più corposo, circa 58 veicoli. Successivamente sulla carreggiata opposta si è verificato un terzo incidente, che però non è connesso ai primi due che si sono verificati a Noventa di Piave. Che bilancio si può fare per quanto riguarda i feriti? Ci sono circa 25 feriti, di cui due in condizioni abbastanza serie, e gli altri invece tutto sommato con lesioni di lieve entità. Com'è la situazione ora sulle strade? Beh, sulla nostra tratta in fase di normalizzazione, l'autostrada è completamente riaperta e agibile. Chiaramente stiamo smaltendo il traffico che era rimasto incolonnato alle uscite obbligatorie che erano state predisposte precedentemente. E i problemi sulla 4, come avete sentito, sono dovuti anche a quel che è successo sul fronte del maltempo, la nebbia, tanto per dire. Più in generale, il maltempo sta creando parecchi danni economici. Ormai va avanti da parecchio, ma anche per questo fine settimana non sarà bel tempo. E questo strano maggio inizia a creare qualche problema economico. I ritardi nelle forniture, nel trasporto merci e negli spostamenti delle persone, provocati dall'allungamento dei tempi di percorrenza, hanno inciso un po' su tutti i settori. Le imprese del nord avrebbero perso circa 250 milioni di euro, 94 solo in Lombardia, secondo la Camera di Commercio di Monza e Brianza. Stando alla Confederazione Italiana degli Agricoltori, le perdite per il settore sarebbero nell'ordine di decine di milioni di euro, come ci spiega il direttore economico Enzo Mastrobuoni. Abbiamo dei problemi, diciamo, già esistenti da diversi giorni per le colture orticole in campo aperto, problemi sugli alberi da frutta, e poi per i seminativi il problema maggiore è relativo al mais. Intanto ieri la grandine è scesa nel Torinese e a Collegno la pioggia ha inondato il municipio. Allagamenti, frane, disagi per il traffico a Genova e dintorni, mentre in Toscana frane e smottamenti hanno colpito Val di Cecina e Senese. Per quanto riguarda poi il livello del Po, questo continua a crescere, ma la situazione non viene ancora definita critica. Matteo Finco, GR24, Il Sole 24 Ore. Restiamo alla cronaca, ma ci spostiamo a Napoli. È morta dopo tre giorni di agonia Mariarca Terracciano, l'infermiera 45enne che per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi da parte dell'ASL Napoli 1 aveva deciso di farsi prelevare ogni giorno 150 millilitri di sangue. La donna, che lavorava presso l'ospedale San Paolo del quartiere Fuori Grotta di Napoli, lascia due figli di 10 e 4 anni. Mariarca Terracciano, così come racconta un quotidiano napoletano, è deceduta ieri dopo essere stata in rianimazione dallo scorso lunedì quando ha avvertito un malore mentre stava lavorando in corsia. La sua singolare protesta era iniziata il 30 aprile scorso ed era durata tre giorni, fino al 3 maggio, quando i fondi destinati agli stipendi erano stati bloccati dal neopresidente della regione Campania, Stefano Caldoro. Il suo gesto disperato, dettato dalla preoccupazione per le scadenze economiche da sostenere e dalle rate del mutuo da pagare, avevano fatto il giro del web grazie a un video postato su YouTube. Ma ascoltiamo proprio la drammatica testimonianza che aveva rilasciato la donna. Sono una dipendente dell'ASL Napoli 1. Ospedale, precisamente dell'ospedale San Paolo. Voglio fare una dichiarazione che fino a quando non sarà accreditato il mio stipendio mi salasserò di 150 ml di sangue ogni giorno. Lo stipendio a noi viene accreditato il 27 e non è stato accreditato. E secondo me lo stipendio è un diritto della persona. Io ho lavorato e pretendo i miei soldi. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E ora cambiamo decisamente argomento, parliamo del Salone del Libro di Torino, che è entrato nel vivo dopo l'apertura ieri. Il tema di quest'anno, la letteratura indiana. La nostra inviata Alessandra Tedesco dai nostri studi. Alessandra. Buongiorno a tutti, sì, dici bene Simone, il tema di quest'anno è l'India, ma non è l'India che ci siamo immaginati fino ad ora. Fino ad ora per noi la letteratura indiana era quella legata alla terra di spiritualità, di avventura, alle leggende sui vecchi Maharaja. Insomma, la letteratura indiana è decisamente cambiata. Adesso si punta soprattutto a descrivere le contraddizioni di una società corrotta, come fa per esempio Tarun Tejpal, il cosiddetto saviano indiano. Lui è un giornalista d'inchiesta che denuncia le mafie metropolitane che ci sono anche in India. Oppure qui al Salone c'è anche Vikas Swarup, il nome forse non vi dice niente, ma insomma lui è l'autore del libro da cui è stato tratto il film The Millionaire. E poi ci sono moltissime scrittrici donne, loro che raccontano le storie appunto di donne divise fra tradizione e modernità, come fa Anita Nair, autrice del successo Cuccette per signore, ma anche Radhika Jha, che qui al Salone del Libro presenta il suo libro Il dono della dea, pubblicato da Neri Pozza. We don't see tradition and modernity as being two things that are fighting each other. Noi non vediamo tradizione e modernità come due cose in contrasto, ci racconta Radhika Jha. Si può dire che coesistano. L'esempio migliore è dato dai matrimoni combinati, perché da una parte la situazione è come ai tempi di mia nonna, ci racconta, ma dall'altra ora la decisione del matrimonio combinato, la decisione finale, spetta al figlio o alla figlia. I miei nonni hanno avuto un matrimonio combinato come da tradizione, anche mio zio, ma mio padre e io stessa invece abbiamo avuto un matrimonio d'amore. Infine, sempre per quanto riguarda la letteratura indiana, c'è la letteratura rosa, una sorta di chick lit, la letteratura per pollastrelle made in India. Regina indiscussa in questo caso è Shabhoade, che porta in pratica su carta il mondo tipico di Bollywood. Simone, un'ultima cosa, ricordiamo che Radio 24 è presente qui in forze al Salone del Libro di Torino, ci trovate al padiglione 2 accanto alla Sala Blu, da dove trasmettiamo una serie di trasmissioni in diretta. Le prossime, alle 16 Vendo Tutto, alle 18.30 La Zanzara con Giuseppe Cruciani, e questa sera alle 21 uno speciale Mailog, Il Libro Infame, condotto come sempre da Gianluca Nicoletti. Qui dal Salone del Libro è tutto, a te Simone. Grazie dunque alla nostra Alessandra Tedesco e passiamo ad un altro appuntamento culturale importante, ossia il Festival di Cannes. Oggi l'attesa era per Oliver Stone, l'inviata del Sole 24 Ore, Cristina Battocletti. Cristina, com'è andata? Sì, buongiorno, è stata appunto, come avete detto voi da studio, la giornata di Oliver Stone, la 63esima edizione del Festival di Cannes e del suo Wall Street 2, I soldi non dormono mai. Il premio Oscar torna dopo 23 anni per raccontare ancora storie di cannibalismo finanziario, ma con lieto fine e con molta attenzione ai rapporti umani. dovrebbe esserci più moralità nella finanza, i broker fanno per il 70% il loro interesse e questo non è più tollerabile. Anche mio padre faceva questo lavoro, ma ha sempre pensato all'interesse dei clienti, ha detto Stone in conferenza stampa. A cui rappresenta anche Michael Douglas, che anche lui ritorna a vestire i panni di Gordon Gekko a distanza di 23 anni, parte grazie a cui nell'88 vinse l'Oscar come migliore attore. Sono molto preoccupato per quanto sta succedendo al mondo finanziario negli Stati Uniti, ha detto Douglas, ma continuo a investire in borsa. Tra gli eventi speciali, questa sera è prevista la proiezione della versione restaurata del Gattopardo, alla presenza dei protagonisti Alain Delon e Claudia Cardinale, e con Martin Scorsese come presentatore d'eccezione. A voi la linea in studio. Le 13:19 minuti, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato della situazione sui mercati, che oggi è tornata difficile, sono tornati i timori sulle borse. Abbiamo parlato dell'inchiesta su G8 e grandi eventi. Le gare di Diego Anemone hanno negato che Anemone stia collaborando. Abbiamo parlato anche del Salone del Libro di Torino e del Festival di Cannes. Adesso andiamo in Thailandia, dove la situazione diventa sempre più tesa. Decisi a riprendere il controllo delle aree in mano ai manifestanti, oggi i militari hanno sparato proiettili anche ad altezza uomo, dicono i testimoni, e lanciato candelotti di gas lacrimogeno. I manifestanti, dal canto loro, hanno assaltato e bruciato un autobus della polizia. Risultato, ancora vittime e ancora feriti. Tra cui un giornalista di France 24 e due reporter thailandesi. E sulla capitale starebbero convergendo altre truppe. Nessun italiano, dice comunque l'ambasciata, è rimasto coinvolto negli scontri. Dall'esilio intanto parla l'ex premier Thaksin Shinawatra, per il quale sono in piazza da mesi le camicie rosse. Per fermare la rivolta, dice, il governo revochi lo stato di emergenza, apra negoziati con i dimostranti per trovare una soluzione pacifica e tenti una riconciliazione con tutti i partiti coinvolti. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. Oggi la festa per i 158 anni della fondazione del Corpo di Polizia, la cerimonia anche il ministro dell'Interno Roberto Maroni, il servizio. L'arresto di 136 latitanti, il sequestro di 4.300 kg di stupefacenti, quasi 6 milioni di chiamate al numero 113 e un intervento ogni 7 secondi sono alcuni dei numeri del bilancio dell'attività svolta nel 2009 dalle forze di polizia. A tracciarlo il ministro dell'Interno Maroni, che in particolare ha parlato di attenzione molto alta del governo nella lotta al terrorismo internazionale, nell'ambito della quale sono stati espulsi in 2 anni 9 terroristi pericolosi. Soddisfatto Maroni anche per un altro importante risultato. In questi 2 anni sono stati sottratti su tutto il territorio nazionale alla criminalità organizzata più di 22.000 beni, soprattutto immobili e aziende, per un controvalore complessivo di oltre 11 miliardi di euro. Quanto alla criminalità ordinaria, sostiene Maroni, è diminuita dell'11% in 2 anni. Presente anche il capo dello Stato Napolitano, che ha premiato con una medaglia d'oro al valor civile la bandiera della Polizia di Stato per la sua azione durante il terremoto dell'Aquila. Ma oggi la polizia celebra anche un importante traguardo. 50 anni fa, nel 1960, indossava la divisa la prima donna. Oggi sono oltre 15.000. Alessandra Schepisi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Avete sentito il ministro parlare di criminalità organizzata? Ebbene, sul fronte del racket, inchieste e arresti si susseguono in Calabria, ma il pizzo continua ad essere una certezza per le casse dell''ndrangheta. Non mancano gli episodi anche delle finte vittime. Le denunce né in Calabria né in Sicilia sono aumentate, rivela Tano Grasso, presidente della Federazione Antiracket. L'intervista di Raffaella Calandra andrà in onda integrale sabato alle 13:30 in Storiacce. Rispetto alla vostra organizzazione, la quota dei calabresi a quanto più o meno corrisponde? Lo 0, qualcosa, ma non è cosa di parlare di quote, ecco. Sono alcune centinaia, li rappresentiamo. Mentre lei parliamo, c'è gente che paga. Parliamo di un fenomeno che non si rende conto quanto è diffuso. Anche lì in Sicilia, tutta la svolta della Confindustria, ma le denunce in Sicilia non sono aumentate. Non sono aumentate. Non so se sono addirittura pure calate nell'ultimo anno. Tutta quella svolta è stata una cosa importantissima, meno male che c'è stata, ma non è che abbiamo pensato possiamo minimamente illuderci che abbiamo risolto il problema. Cioè abbiamo avuto qualche denuncia in più in una realtà come Palermo, poco più di qualche decina. Cioè la stragrande maggioranza degli imprenditori continua tranquillamente a convivere. Ettano Grasso è uno degli ospiti, insieme al procuratore di Reggio Calabria Pignatone, del convegno Legalità come fattore di sviluppo della competitività, organizzato anche dal gruppo 24 Ore, in corso da questa mattina al Teatro San Fedele di Milano. Lo sport ora, iniziando dal ciclismo. Il Giro d'Italia oggi parte da Fidenza e arriva a Marina di Carrara, 172 km, mentre la maglia rosa resta sulle spalle dell'italiano Nibali. Piero Augusto Staggi ha intervistato poco fa Ivan Basso, sentiamolo. Una tappa non difficilissima, ma sicuramente ostica quella di oggi. Sì, come sicuramente in un Giro d'Italia di tappe facili non esistono, anche oggi è una giornata molto particolare, il tempo anche non buonissimo, quindi bisogna prestare molta attenzione. Lavorate tutti in questa fase per tenere più a lungo possibile Vincenzo Nibali in maglia rosa? Noi lavoriamo per cercare di vincere questo Giro d'Italia. In questo momento la nostra squadra ha lavorato benissimo e cerchiamo di continuare a farlo. Domani una tappa ancora più insidiosa, ma anche affascinante, sulle strade bianche del Senese. Si preannuncia anche per quella terza gara pioggia, purtroppo. Sì, dobbiamo correre questo Giro d'Italia con motivazione, non guardare il tempo, non guardare niente. Questo è il giro, va corso con tutto l'agonismo possibile e dare spettacolo per tutti i tifosi, quindi questo è il nostro dovere principale. Così dunque Ivan Basso, mentre invece sul fronte del calcio sono già in fila gli interisti per comprare un biglietto per la finale di Champions. Irene Privitera, dove? Ciao Simone, buongiorno, sono a Via Massaua di fronte all'Agenzia della Banca Nazionale del Lavoro, che da domattina metterà a disposizione dei tifosi nerazzurri 5.000 biglietti per la finale di Champions League a una settimana dalla serata di Madrid. Le file sono due, una per i 1.000 biglietti a disposizione dei soci dell'Interclub e una per i 4.000 destinati invece agli abbonati. Sono coloratissime, ombrelli, tende canadesi, cellofan che fa da tetto improvvisato per ripararsi dalla pioggia nello spazio stretto definito dalle transenne. I tifosi hanno allestito diversi picnic improvvisati, da pochissimo non piove più, i tifosi nerazzurri sono stanchissimi perché hanno già passato una notte fuori, sono 300, circa 400 dicono le forze dell'ordine, sono stanchi, non hanno tanta voglia di chiacchierare con i giornalisti, però è un bello spettacolo, si scaldano coi cori da stadio, fanno amicizia tra loro, c'è molta civiltà, infatti le forze dell'ordine vigilano su una situazione diciamo piuttosto tranquilla. Il posto in fila però non si lascia, è fallito infatti il tentativo di creare una lista con i nomi di chi man mano arrivava qui davanti alla banca, ma sentiamo l'intervista che ho fatto poco fa sotto la pioggia a uno dei tifosi. Io sono qua dalle 8 di ieri sera. Mamma mia, dove hai dormito? In tenda, per terra, con l'acqua che ti bagnava le mutande, è stato abbastanza traumatica come esperienza. Pensi che ce la farai fino a domattina alle 11? Per forza, ho fatto una notte, ne faccio un'altra e poi vado a casa a dormire, però col biglietto in tasca. Ed è tutto per questa edizione di GR24, grazie ad Irene Privitera per questo collegamento. Edizione condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Cece e Daniele Biacchessi, in regia Fabio Cantadori. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.